Sono 13. GR24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large. A noi i figli della mafia vogliamo legalità, è l'appello che rivolgeranno domenica i parroci dei paesi d'Andrangheta. Uccide moglie e tre figli, poi si toglie la vita, una vicenda ancora tutta da chiarire a Verona. Il petrolio oggi vale 50 dollari al barile, la metà rispetto a luglio. La crisi fa tornare indietro l'orologio della domanda di energia di 23 anni. La mia coscienza è pulita, io resto. Il senatore Villari non cede il timone della vigilanza RAI. Matrimoni difficili, oggi si scioglie Forza Italia, DS e Margherita uniti nel Partito Democratico, ma i dipendenti dei due vecchi partiti restano ancora ognuno a casa propria. Non sono un cervello in fuga, ma non credo tornerei in Italia. Extra Large si racconta il chirurgo italiano che a Miami ha ridato il cuore ad una ragazza dopo 118 giorni. Noi chiediamo all'Andrangheta, ecco, di deporre le armi, di non portare la cultura della morte, perché dinanzi alla cultura della morte noi reagiamo con la cultura della vita. Chiediamo anche di consegnarci i figli della mafia, tutti quei ragazzi, quei giovani che sono all'interno di questi circuiti di morte, di consegnarcelo a noi, alla società civile, alla Chiesa, perché questa catena veramente venga spezzata una volta per tutte e si possa iniziare a respirare in Calabria il profumo della legalità, il profumo della giustizia, il profumo della pace. Gerex Salarge, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Anna Migliorati. La voce che avete sentito, l'appello, è quello con cui abbiamo voluto aprire oggi l'edizione di Extra Large di Don Antonino Vattiata, parroco di Vazzano, un paesino in provincia di Vibo Valentia, siamo naturalmente in Calabria. È uno degli autori della lettera all'Andrangheta che verrà letta domenica in molte chiese della diocesi Mileto, Nicotera, Tropea, una zona, come sappiamo, ad alta concentrazione mafiosa. E oggi intanto la cronaca segnala due duri colpi alla camorra. Il Tribunale di Napoli ha disposto nei confronti di Vincenzo Prinno, capo del clan Prinno Pristillola, la confisca del patrimonio, un valore complessivo di 1,3 milioni di euro. E poche ore prima in manette era finito il figlio di un boss della camorra, Gianluca Bidognetti, 20 anni, è accusato di avere fatto parte del comando che tentò di uccidere a colpi di pistola Maria Carrino e la figlia Francesca, che sono la sorella e la nipote della ex convivente del padre, dunque del boss della camorra, divenuta poi collaboratrice di giustizia. Andiamo ora a Verona, cambiamo pagina. Una spaventosa strage familiare. Un uomo ha ucciso moglie e tre figli, poi si è tolto la vita. Come dicevamo anche nei nostri titoli, una vicenda davvero ancora tutta da chiarire. A Verona c'è Davide Periocos. Resta confermato il quadro già emerso in precedenza. Si tratta di un delitto familiare. È stato il padre, un commercialista di 43 anni, Alessandro Mariacci, ad aver ucciso la famiglia a colpi di pistola. Prima la moglie, Maria Riccarda Carrara Bottacisi, anche lei di 43 anni, avvocato, e poi tre figli piccolissimi, di un'età compresa fra i tre anni il più piccolo e 9 anni il più grande. Il delitto è avvenuto nel loro appartamento, che è una villetta ricavata all'interno di una corte rustica ristrutturata. All'interno della corte abitano anche altre famiglie, si trova in località San Felice Extra, alle porte di Verona. La strage è successa probabilmente ieri sera, i vicini non si sono accorti di nulla, qualcuno forse ha sentito rumori, ma solo adesso col senno di poi li ricollega a quello che è successo. Ad accorgersi del delitto è stata la domestica questa mattina, ma sentiamo le dichiarazioni di Giampaolo Trevisi, vice dirigente della squadra mobile di Verona. Si tratta di un omicidio-suicidio, che probabilmente quindi il capo famiglia ha ucciso la propria moglie e il figlio più piccolo in una tavernetta sotto l'abitazione, sotto il salotto. Poi è andato su, ha ucciso gli altri due bambini e poi si è sparato un colpo in testa. È una famiglia benestante, una famiglia che anche gli stessi vicini non hanno esitato a definire modello, sia per uno stile di vita, sia per un'abitazione che poi voi vedete, è un'abitazione, una corte, anche all'interno della casa era una casa arredata molto bene, ordinata, pulita, quindi non c'era nessun segno evidente di quello che potesse poi oggi che è accaduto. e torneremo naturalmente a Verona nel corso della giornata. Grazie intanto Davide Piriocos. E apriamo la pagina politica con il tormentone di questi giorni, insomma è un tormentone anche per quanto riguarda le vignette sui giornali. Parliamo naturalmente del caso Commissione di Vigilanza Rai. C'è chi la vede così, come Crancici sul giornale, c'è un Veltroni fuori da una porta di una toilette, c'è scritto sopra Vigilanza Rai e da dentro gli dicono occupato. E invece c'è Giannelli sul Corriere, c'è la porta del Partito Democratico, dell'ufficio del Partito Democratico che si apre, ne esce un Villari, da dentro gli gridano ehi Villari, la poltrona, Villari se ne va con la sedia attaccata alle membra. E anche oggi la domanda è: Villari cosa fa? Resta al suo posto? Vincenzo Miglietta, andiamo a Palazzo Madama, che succede? Sì, buongiorno ai nostri ascoltatori. Continua di fatto il pressing su Riccardo Villari affinché lasci la presidenza della Commissione di Vigilanza Rai. Espulso dal gruppo PD del Senato, Villari è stato invitato a rassegnare le dimissioni praticamente da tutti quelli che contano, dai presidenti di Camera e Senato Fini e Schifani, da Berlusconi, dallo stesso Veltroni. Villari tuttavia mostra tranquillità. Ieri nel maggior momento di tensione ha detto vado avanti, oggi lo ha ribadito, ma ascoltiamo le sue parole. Dormo bene la notte, sono tranquillo. Ho parlato con i presidenti delle Camere, quindi il loro pensiero lo conosco, ce lo siamo detti, quindi vorrei mantenere questo profilo di grande rispetto, prudenza e silenzio, e non aggiungermi alle tante cose che si dicono. Poi ogni tanto vedo spuntare qua e là qualche considerazione mi viene attribuita. Allora mi rendo conto che ognuno fa il suo lavoro, ma io mi devo pure tutelare in questa intenzione a cui mi sono consegnato in maniera molto rigorosa. Per adesso non c'è nessuna convocazione. Villari dunque va avanti per la sua strada, va avanti anche il Partito Democratico, però dopo aver deciso per la sua espulsione. Sentiamo allora il capogruppo al Senato Anna Finocchiaro. Non riesco a spiegarmela, glielo dico con grande franchezza, non riesco a spiegarmela, non c'è nessun'altra alternativa a Zavoli, nessuna. Il centrodestra intanto sta, per così dire, alla finestra, conferma l'accordo su Zavoli, ma insiste, è necessario garantire la funzionalità della Commissione di Vigilanza Rai. Sentiamo allora il presidente vicario del gruppo PDL alla Camera, Italo Bocchino. La moral suasion dei presidenti delle Camere e del presidente Berlusconi adesso riguarda la coscienza del senatore Villari, quindi le sue determinazioni le dovremmo attendere ad ascoltare con attenzione e nello stesso tempo comprendere come fare a garantire la funzionalità della Vigilanza Rai. In attesa di sviluppi resta comunque Sergio Zavoli, che commenta: non sono sdegnato ma intristito. È tutto. Grazie anche Vincenzo Miglietta, e ormai la conclusione sembra invece davvero la vicenda all'Italia. Sì, perché alcune tasselli stanno andando al loro posto. Il contratto di compravendita tra CAI e Alitalia è stato firmato, per esempio il passaggio di consegne degli asset di volo dalla ex compagnia di bandiera alla compagnia aerea italiana avverrà il 1° dicembre prossimo. Ora ci sono da definire i termini tecnici per il passaggio dei dipendenti. Questa mattina altri incontri. Francesca Malaguti. Sì, questa mattina l'ENAC ha ricevuto il commissario Fantozzi e l'amministratore delegato di CAI Sabelli per organizzare il passaggio dalla vecchia alla nuova Alitalia, passaggio che deve avvenire praticamente senza soluzione di continuità. La data prevista è il 1° dicembre, quel giorno, subito dopo la mezzanotte, personale in servizio e aerei dovranno dipendere da CAI, quando fino a un minuto prima erano in mano alla compagnia commissariata da Fantozzi. Tutto ciò è facile a dirsi, un po' meno a farsi, anche se questa mattina il presidente dell'ENAC, Vito Riggio, ha chiosato: l'abilità degli italiani si vede proprio nelle situazioni d'emergenza. L'ente per l'aviazione civile ha istituito per questo un comitato di vigilanza. Riggio ha spiegato cosa occorre. Sentiamo. Occorre il materiale proprietà degli aerei, l'assunzione delle persone, il tipo di organizzazione prevista. Tutto questo deve essere pronto prima del rilascio del certificato. A mezzanotte non ci sarà nessun aereo in volo, quindi? Diciamo che normalmente queste operazioni si fanno fermando per fallimento l'impresa principale e poi aspettando addirittura mesi. Noi stiamo provando a farla nella continuità tecnica migliore, cioè con il minor tempo possibile. Da parte sua, CAI dovrà dare la garanzia di avere al momento del passaggio i mezzi per far volare e far fronte agli impegni almeno per 3 mesi. Per essere riassunti dalla nuova compagnia, i dipendenti di Alitalia, anche quelli ancora in servizio, devono passare per la cassa integrazione, che in molti casi durerà un minuto, dalla mezzanotte del 30 ottobre a mezzanotte 01 del 1° dicembre. In questa data confida il commissario Fantozzi, che, lo ricordiamo, ieri ha accettato formalmente l'offerta di CAI per 1.052 miliardi. Di cui cui 427 saranno pagati in contanti e 625 sono debiti che l'acquirente si accolla. È tutto da Roma. Grazie a Francesca Malagotti per una vertenza che si sta chiudendo, un'altra davvero ancora tutta aperta, ed è quella del Teatro alla Scala di Milano. Don Carlo, opera che dovrebbe aprire la stagione del teatro milanese, ma che il 7 dicembre, data tradizionale della prima della Scala, potrebbe non andare mai in scena. Ve l'abbiamo già raccontato anche nei giorni scorsi, c'è infatti una dura vertenza sindacale in corso. Sì, perché i sindacati confederali hanno firmato l'accordo per il contratto per i musicisti, ma non così hanno fatto gli autonomi. E tra l'altro a rischio c'è anche la riapertura di un altro grande teatro italiano. Stavolta parliamo del Petruzzelli a Bari. Mancano 16 giorni alla prima della Scala, l'atteso Don Carlo di Giuseppe Verdi, e la vertenza con gli orchestrali è ancora aperta. Uno sciopero potrebbe farla saltare. Se questo avverrà, la responsabilità ricadrà tutta sul sindacato autonomo FIALS, che non ha firmato il contratto integrativo come hanno fatto invece CGIL, CISL e UIL. La spaccatura all'interno del teatro è ormai netta. Da una parte i confederali, con oltre il 90% dei dipendenti a favore dell'integrativo, dall'altra invece la FIALS, a cui sono iscritti buona parte dell'orchestra e una trentina di che l'integrativo lo considera dannoso per le masse artistiche e vuole ottenere condizioni migliori. Giuseppe Anastasi, orchestrale aderente alla FIALS. Questo accordo è peggiorativo rispetto a quello che noi ci si aspettava. I sindacati confederali CGIL e CISL UIL hanno una scarsissima rappresentatività nell'area artistica del teatro. Noi vogliamo essere pagati il giusto, e se c'è un qualcosa che riguarda un diritto sancito dalla legge, bisogna attenersi a quelli che sono gli accordi preesistenti. Non è che ci deve essere qualcuno che scavalca e firma accordi che non ne tengono conto. Di parere nettamente diverso Giancarlo Albori della SLC CGIL, che accusa la FIALS di essere irresponsabile. Come si può pensare di mettere a soqquadro il teatro aprendo una crisi che potrebbe avere esiti inaspettati? Questo teatro è un simbolo nel mondo. Allora noi su questa strada non ci stiamo. È una strada che fa emergere egoismi, corporativismi che francamente noi non ci sentiamo di perseguire. Se salterà la prima, i problemi di bilancio del Teatro alla Scala saranno ancora peggiori delle previsioni, e nel 2009, con il taglio di 9,8 milioni di euro di fondi statali, la Scala potrebbe andare decisamente in rosso. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Qualche giorno fa migliaia di baresi facevano la fila sotto il comune di Bari per aggiudicarsi il biglietto per accedere al concerto di Placido Domingo, fissato per la notte tra il 5 e il 6 dicembre, la stessa notte in cui migliaia di cittadini vanno in processione a pregare il santo patrono San Nicola. E migliaia hanno firmato le petizioni sul sipario per chiedere la riapertura del teatro Petruzzelli, incendiato 17 anni fa. Ora l'inaugurazione, attesa come simbolo di rinascita culturale dell'intera città, rischia di saltare. Un groviglio di polemiche che tirano in ballo leggi, burocrazia, controversie giudiziarie, minaccia quella che si annunciava come una grande festa. L'invito del ministro dei beni culturali Sandro Bondi a rimandare l'apertura per consentire tutti gli accertamenti tecnici relativi al collaudo del teatro e per risolvere le questioni giuridiche con la famiglia proprietaria non fa felici i baresi e crea un braccio di ferro di tipo politico con la giunta di centrosinistra. Il sindaco di Bari fino a qualche giorno fa era deciso ad andare avanti, adesso non si sbilancia più, non resta che aspettare ancora. Vanessa Colangiuli, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Minuti 30 secondi, le notizie di oggi. Tragedia a Verona, un uomo di 33 anni ha ucciso la moglie, sua coetanea, i tre figli e poi si è suicidato. È accaduto ieri sera nella zona di San Michele Extra, la scoperta stamattina dalla donna della polizia. Arrestato Gianluca Bidognetti, figlio del boss dei Casalesi, accusato di aver fatto parte del commando che tentò di uccidere la sorella e la nipote dell'ex convivente del padre. Erano diventate collaboratrici di giustizia. Tutto pronto per il decollo della compagnia aerea italiana il 1 dicembre prossimo, lo dice l'ENAC. L'Unione Europea aspetta solo l'ultimo parere sulla vendita degli asset alla CAI, dice il commissario Tajani. Studenti in piazza ancora a Milano contro la riforma nelle università. In Italia si fa poca ricerca? Non sono un cervello in fuga, ma credo che non tornerei, dice il chirurgo che a Miami ha ridato il cuore ad una ragazza dopo 118 giorni. E in effetti, dopo un trapianto fallito, una giovane americana è sopravvissuta 118 giorni con due pompe cardiache al posto del cuore, in attesa di un nuovo donatore e di un altro intervento. La 14enne operata è già a casa e le sue condizioni sono generalmente buone. Ad operarla un medico italiano, si chiama Marco Ricci ed è direttore del reparto di chirurgia cardiaca pediatrica dell'ospedale Olds di Miami. L'ha intervistato per noi Laura Bettini. È venuta da noi a giugno per una condizione di cardiomiopatia dilatativa. In pratica è una condizione che è difficile spiegarla in italiano. Lei quanti anni è che vive negli Stati Uniti? 15 anni. Quindi ormai l'italiano lo pratica poco. Sì, dal punto di vista medico lo pratico poco. Comunque è una condizione che si associa ad una progressiva perdita di funzione del cuore e una progressiva dilatazione delle camere ventricolari. E quando la condizione diventa molto severa non esiste altra alternativa al trapianto di cuore. E purtroppo immediatamente dopo il trapianto di cuore ci sono stati dei problemi perché il cuore nuovo non ha funzionato come dovrebbe, e quindi abbiamo dovuto supportare la funzione cardiaca per circa 2 giorni con una pompa artificiale temporanea, e poi siamo stati, diciamo, costretti a reintervenire. Abbiamo praticamente espiantato di nuovo, rimosso il cuore trapiantato perché non funzionava. A quel punto c'è stato il dilemma di che cosa usare per tenerla in vita, per poterla trattare in futuro con un secondo trapianto. Abbiamo deciso di usare un sistema di pompa ventricolare che esiste sul mercato, almeno negli Stati Uniti, che è un sistema che però è usato solitamente per aiutare il cuore a pompare più sangue. Non è un sistema che è utilizzato per sostituire il cuore. E quindi abbiamo usato in realtà 2 pompe ventricolari, una per sostituire il ventricolo destro e una per sostituire il ventricolo sinistro. Dopodiché la paziente è rimasta con praticamente un cuore artificiale per 118 giorni, quindi quasi 4 mesi. Fino a quando non avete potuto trovare? Fino a quando non abbiamo potuto trovare un altro cuore che abbiamo impiantato, e il giorno dopo il secondo cuore trapiantato l'abbiamo anche riportato in sala operatoria per fare un trapianto di rene, perché i reni avevano sofferto durante tutto il periodo di in cui era debilitata, e ieri, dopo 3 settimane dopo il secondo trapianto di cuore, è stata mandata a casa. Ah, già a casa? Sì, non le so dire con certezza se non ci sia mai stato un caso di cuore artificiale pediatrico in una paziente così giovane. Probabilmente questo è il caso più giovane, ma prima di claim medical first, prima di essere sicuri che di questo rivendicare è un primato. Esattamente, questo non ne siamo sicuri, perché è sempre possibile che in un centro in qualche parte del mondo che non riporta i dati alla stampa o nella letteratura medica questo sia stato fatto e non ne siamo a corrente. Ma che difficoltà comporta intervenire in un paziente così giovane rispetto a un adulto? Ma in realtà dal punto di vista del body size, dal punto di vista della differenza in dimensione corporea, una 14enne ha un corpo che è abbastanza simile a quello di un adulto. Il problema però in questo caso è stato il fatto che ci è voluto un certo numero di settimane perché la paziente potesse ricoverare dal stress di un trapianto di cuore che è andato male, poi l'inserzione delle pompe ventricolari. È stata un'avventura incredibile anche per questa povera ragazza di 14 anni, si può immaginare, è abituata ad andare a scuola e andare fuori, giocare, fare le cose che una 14enne fa. Insomma, la povera ragazza è stata praticamente connessa alla pompa per quasi 4 mesi, è stata molto challenging, molto difficile anche dal punto di vista umano, psicologico. Da un punto di vista fisico, che prospettive può avere questa ragazza di vita normale, diciamo così? In genere la qualità di vita in un paziente trapiantato, in realtà quando il ricovero è completato, è abbastanza buona, sarà in grado di andare a scuola e fare le altre cose che fanno tutti gli adolescenti di un'età simile. Lei prima mi ha detto che sono 15 anni che vive negli Stati Uniti, è uno dei tanti cervelli in fuga? Ma guardi, io praticamente sono nato e cresciuto a Roma, ho fatto l'università a Roma e poi mi sono, diciamo, trasferito qui per negli Stati Uniti per studiare, per completare il training in cardiochirurgia, e poi praticamente sono rimasto, non sono tornato indietro, ancora la famiglia a Roma, ma sto bene qui e non mi sento di essere un cervello, ma sono ben a conoscenza delle difficoltà che ci sono lì in Italia, e quindi così, per avendo trovato delle buone opportunità qui, mi sono fermato, ma mai dire mai, c'è sempre una possibilità in futuro. Ho visto che ci sono molti italiani all'Università di Miami nella facoltà di chirurgia, c'è un motivo? Ma guardi, non le so dire, qui si lavora abbastanza, però senz'altro quando non si lavora, stare a Miami è meglio che stare in Minneapolis, Minnesota, o nel mezzo degli Stati Uniti continentali, diciamo. Ma ci sono dei grossi centri dove in genere gli stranieri tendono a essere più frequenti, soprattutto a New York, Boston, Miami, forse perché sono città più grandi e anche i medical centers sono più sviluppati e hanno più specialità, e quindi attraggono scienziati o stranieri o visitatori o studenti da più parti del mondo. È bello fare ricerca, insomma, dove è lei? Sì, questo è un posto molto bello, io sono molto soddisfatto. Da ragazzo spiare i ragazzi giocare al ritmo balordo del tuo cuore malato, e ti viene la voglia di uscire e provare. Che cosa ti manca per correre al prato? E sulle note di De André, Marco Ricci, il chirurgo italiano che in America ha ridato il cuore a una ragazza vissuta senza per 118 giorni. E adesso parliamo ancora di ragazzi, se vogliamo, ma in tutt'altra chiave. Parliamo di scuola, una scuola però particolare dove si studia economia, ma potremmo dire anche pace. Sentiamo. Si chiamano Roni Lulu e Sherazade Elfar. Il primo è israeliano, la seconda è palestinese. Hanno studiato per un anno fianco a fianco a Milano, condividendo libri, professori e mensa. Sono infatti due dei 20 giovani provenienti da paesi non europei dell'area del Mediterraneo che hanno appena concluso la scuola euromediterranea. Si tratta di 20 laureati scelti fra i migliori dei loro paesi che per un anno hanno studiato nel nostro paese grazie alla collaborazione fra Altis, l'Alta Scuola Imprese e Società della Cattolica di Milano, le regioni Lombardia e Veneto, Promos, le Camere di Commercio di Milano e Venezia e la Fondazione per la Sussidiarietà. Una scelta, quella di portare in Italia questi giovani, che vuole dare un piccolo contributo di pace, ma anche portare nel nostro paese personale altamente qualificato. Il presidente Giorgio Vittadini. Questi 20 giovani che hanno finito adesso la scuola hanno già avuto proposte di lavoro, un lavoro legato all'interscambio tra Italia e paesi del Mediterraneo, quindi sono un piccolo ma grande risultato che è un esempio di quello che secondo noi è la strada per il nostro paese, intensificare rapporti con questi paesi che hanno un interscambio più alto della Cina per noi e farlo sviluppando una politica di capitale umano. Maria Piera Ceci, GR24, Il Sole 24 Ore. E gli studenti sono tornati in piazza oggi a Milano contro i tagli alla scuola e all'università decisi dal governo. Studenti di superiori e universitari sono ancora in piazza Affari, vicino alla borsa, per una giornata di lezioni all'aperto. Ha raccolto le loro voci per noi Roberta Pellegatta. Abbiamo preso come slogan noi la crisi non la paghiamo, e ci sembrava giusto arrivare in Piazza Affari, uno dei luoghi dove effettivamente la crisi viene agita e viene sviluppata. Ma oggi adesso inizierà il professor Beolchi, che insegna al Politecnico gestione della ricerca. Questa lezione all'aperto fa parte di un programma di inserimento dell'università nella vita della città. L'università è sempre stata formalmente aperta, si tratta di trasformarla in realmente aperta, questa è una delle maniere, quindi sono le stesse lezioni che facciamo in aula, le facciamo. piazza. Le elezioni in piazza non vogliono solo essere un segno di protesta, ma vuole essere proprio la dimostrazione della costruzione della libera università, della nostra università, i corsi di autoformazione che oggi sono a Brera, ci sarà un Inamade oggi a Scienze Politiche, quindi stiamo cercando di costruire la nostra libera università. Per prima cosa bisogna fare in modo che il governo tolga gli 8 miliardi di tagli che sono stati fatti in finanziaria, perché non è possibile che tutte le volte che si riformi la scuola la riformino i ministri senza sentire nemmeno il parere di studenti, insegnanti e docenti. 13 e 35 minuti, le notizie di oggi. Il petrolio oggi vale 50 dollari al barile, la metà rispetto a luglio, anche questo effetto della crisi. Un uomo di 33 anni uccide moglie e tre figli, poi si toglie la vita. La tragedia a Verona, la scoperta stamattina dalla donna delle pulizie. Tutto pronto per il decollo della compagnia aerea italiana il 1° dicembre prossimo, lo dice l'ENAC, i dipendenti passeranno da una compagnia all'altra in 3 minuti alla mezzanotte del 31 novembre. La mia coscienza è pulita, io resto, il senatore Villari non cede il timone della vigilanza RAI. Donne ai vertici, Hillary Clinton avvicina alla nomina a segretario di Stato negli Stati Uniti. In Francia tutta in rosa la sfida per guidare il Partito Socialista. L'ONU rafforza il contingente in Congo, ma è emergenza umanitaria per gli sfollati. Il nostro diario dal paese africano. E dunque il prezzo del petrolio che segue l'andamento negativo delle borse mondiali. Oggi il greggio è sceso di nuovo ed è andato sotto i 49 dollari al barile, ai livelli credo di 3 anni fa, ma lo chiediamo a Roberto Capezzuoli, esperto del Sole 24 Ore, che è qui in studio con noi. Livelli che risalgono a quanto tempo fa, Roberto? Sono livelli del maggio del 2005 e diciamo che mentre ci ha messo 3 anni per triplicare il prezzo, ci ha messo solo 3 mesi per tornare a quei livelli, e sono dettati dalla recessione. Ecco, quindi la ragione che tutti si chiedono è questa, insomma, la minor domanda. Sì, assolutamente. Minor domanda negli Stati Uniti, ma anche in Asia. Una domanda così pratica: scende il petrolio, quanto ci vorrà perché scenda la benzina? 3 mesi anche qui? No, noi speriamo molto, molto meno. In realtà adesso il prezzo alla pompa, il nostro prezzo della benzina, è composto in buona parte da tasse che non sono nemmeno proporzionali. L'accisa è fissa e è quasi la metà del prezzo della pompa. Poi c'è un prezzo industriale da calcolare, quello è in netto calo. Poi c'è il margine del gestore della compagnia. Bisogna ammettere che i margini delle compagnie negli ultimi mesi sono leggermente aumentati, e questo è il polmone che potrebbe restringersi e dare a noi un prezzo molto più favorevole. Dicevamo, insomma, la diminuzione del prezzo dovuta quasi tutta alla minore domanda, quindi un effetto della recessione, Roberto, ma questa fase potrebbe in qualche modo contribuire anche a togliere intorno alle quotazioni del petrolio tutte quelle speculazioni di cui si era parlato molto anche nei mesi scorsi? Direi di sì. La speculazione già in estate era stata messa sotto accusa per i forti rialzi e ha cominciato a uscire allora dal mercato, e adesso per i credit crunch e per la difficoltà di prevedere il futuro non ha particolare interesse a rientrare, quindi si sta scremando un po' l'effetto. Occasione per fare un po' piazza pulita, insomma. E potrebbe essere un'occasione, anche se naturalmente lo speculatore riesce a guadagnare anche in discesa dei prezzi. Grazie a Roberto Capezzuoli, intanto esperto di materie prime del Sole 24 Ore, per essere stato con noi. Grazie a voi. Cambiamo argomento, ma neanche troppo. Perché il petrolio c'è anche quello che è stato sequestrato dai pirati lungo le coste della Somalia. Allora, le ultime notizie. I pirati della super petroliera saudita piangono miseria. Uno dei sequestratori, contattato sul suo telefono satellitare dal giornale arabo Al-Sharq Al-Awsat, si dice disposto a fare uno sconto sul riscatto di 25 milioni di dollari. La ragione? L'amore che riserviamo all'Arabia Saudita, che è un paese musulmano. Il predone, che si fa chiamare Jamal Adam e dice di essere somalo, di avere 35 anni, spiega: siamo in 40 ad avere abbordato la nave e poi ieri abbiamo cambiato 25 del nostro equipaggio sulla petroliera. I soldi, insomma, vanno divisi anche con i nostri soci sparsi in vari paesi. Dice che le trattative vanno avanti e che i membri dell'equipaggio stanno tutti bene. Paura delle decine di navi da guerra occidentali che perlustrano le acque del Golfo di Aden? Neanche per idea. Veramente, quando li incrociamo ci scambiamo saluto marinaio, dice Serafico prima di riattaccare. Adi Fatah Ali, GR 24, Il Sole 24 Ore. Così in Somalia, ma proprio il controllo delle materie prime è una delle ragioni dello scontro anche in Congo tra guerriglieri e forze regolari. Ieri il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione per aumentare di oltre 3.000 uomini i militari dei caschi blu che sono dispiegati nella Repubblica Democratica. Una speranza per mettere fine alle violenze delle ultime settimane. E allora sentiamo il racconto della situazione umanitaria nel viaggio di Giampaolo Musumeci. Qui a Goma, capitale del Kivu, Congo, piove sul bagnato. Alle emergenze umanitarie, ora che la stagione delle piogge è alle porte, si aggiunge il problema dei ripari. Perché qui in Africa è tutto grande, iperbolico, e quando piove, qui piove sul serio. E così nel campo di sfollati di Kibati 1, che abbiamo visitato oggi, villaggio alle porte di Goma, 3 km a nord della città, i tetti delle capanne si impregnano d'acqua e le tende di fortuna respingono a fatica gli acquazzoni che sono sempre più frequenti. 14.000 sfollati in un campo che è nato l'anno scorso, qui sopravvivono a fatica, sono uomini, donne, bambini, tentano di vivere una normalità che è impossibile. Gli aiuti delle tante ONG presenti non sono sufficienti, le condizioni igieniche e sanitarie sono inumane e poi c'è fame, tanta fame. Mbale, che abbiamo incontrato, ha 43 anni, una moglie e 8 figli a carico. Da un anno ha lasciato la sua casa e il suo lavoro di infermiera ad Ushuru nel nord. È scappato dai ribelli e ora Kibati è qui, che prega Dio e aspetta solo di poter tornare a casa. Il campo di sfollati di Kibati vive così l'ennesima tragica giornata all'ombra del vulcano Nyiragongo, quel vulcano che nel 2002 vomitò fuoco e lava sui villaggi vicini. Ma Nyiragongo e il suo potenziale distruttivo è l'ultimo dei pensieri di questo esercito di disperati. Ora la paura ha un altro nome e un altro volto, quello dei tenaci guerrieri ribelli guidati dal carismatico Nkunda, che li ha costretti a abbandonare le loro terre, e quello dei soldati governativi che dovrebbero proteggerli e che invece sono una minaccia. Al calare della sera, Kibati diventa un potenziale campo di reclutamento per baby soldato e una zona franca dove il riposo del guerriero si può tramutare in uno stupro impunito e continuato. All'estero restiamo sulle pagine dei giornali. Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. E parliamo di donne oggi. Sì, io sono sempre contenta quando riusciamo a parlare di donne. Questa volta è Hillary Clinton, che insomma non è proprio una sconosciuta, però si avvia probabilmente a soluzione la trattativa sul suo ruolo nella futura amministrazione Obama. Probabilmente non sarà segretario di Stato, nonostante il marito le abbia spianato la strada promettendo di chiarire, di lasciare massima trasparenza sulla sua fondazione, eventualmente anche uscirne perché non ci fossero conflitti di interesse. Sarà probabilmente il leader della maggioranza democratica in Senato. E la cosa bella è che in questo modo ci sarà Hillary al Senato e invece nella House of Representatives resta Nancy Pelosi, la Speaker della House, altra donna democratica e molto potente, quindi avremo una casa, un congresso americano rosa. Mi inserisco in questo dialogo tra donne su donne perché l'esito del ballottaggio... Un altro paese diventa rosa in politica. In Francia l'esito del ballottaggio per il Partito Socialista interessa anche gli uomini. È qui anche qui una lotta tra donne, non senza qualche colpo basso. La favorita tra Ségolène Royal e Martine Aubry è però Ségolène Royal. Vedremo come finirà. Direi che i giornali parteggiano quasi tutti per Ségolène, ma più che altro perché ha dimostrato tutto sommato che era in grado di portare il partito alle elezioni, anche se poi le ha perse, però lo ha sufficientemente rinnovato in un momento difficile da essere tra le due quella più adatta per appunto portare il Partito Socialista fuori dalle difficoltà di un'opposizione molto difficile in Francia in questo momento, vista la prevalenza del partito di Sarkozy, che è riuscito, così come in Italia, a schiacciare un po' l'opposizione, ecco, diciamo così. Diciamo una netta differenza anche lì tra maggioranza e opposizione. Grazie, a lunedì, Giulia Crivelli. Sì. Ed ora i consigli per il weekend del nostro gastronauta, Davide Paolini, che ci porta in Campania. Per una serata in Campania, oggi vi propongo un locale in località Cerza Grossa, Sorbo Serpico, in provincia di Avellino. Ebbene, in questa località esiste un'azienda vinicola molto importante, una delle più importanti del sud, che si chiama Feudi di San Gregorio. Ebbene, all'interno di questa azienda, in maniera molto anomala, perché non succede spesso in Italia, c'è un ristorante, ma un ristorante gourmet, non è un ristorante in cui si mangia solamente a mezzogiorno velocemente, con la cucina di Paolo Barrale. Paolo Barrale è uno chef, un giovane chef siciliano che offre una cucina che è sicuramente basata su molti prodotti del territorio campano, ma sicuramente anche sulla sua creatività. E nel periodo del tonno, per esempio, il tonno viene proposto in maniera davvero inconsueta, addirittura con 5 modi di cottura. E poi ancora si possono mangiare zuppa di pomodoro e scapece con zucchine. E poi ancora si possono mangiare una serie di dolci e di dessert davvero molto ma molto golosi, come dicevo, accompagnati da una serie di vini davvero importanti come quelli prodotti dall'azienda di Feudi di San Gregorio. 13:47 minuti, le notizie di oggi. Un uomo di 33 anni uccide moglie e 3 figli, poi si toglie la vita, la tragedia a Verona. Tutto pronto per il decollo della CAI, i dipendenti passeranno dall'Alitalia alla CAI in 3 minuti alla mezzanotte del 30 novembre. La mia coscienza è pulita, io resto, il senatore Villari non cede il timone della vigilanza RAI. Matrimoni difficili, oggi si scioglie Forza Italia, DS Margherita uniti nel PD, ma resta il problema dei dipendenti dei vecchi partiti. È importante dare vita a questa nuova creatura che sarà la protagonista della libertà e della democrazia nei prossimi decenni. Ne sono assolutamente sicuro. Partito del popolo della libertà. Il popolo della libertà. Era il 18 novembre di un anno fa quando Silvio Berlusconi a Milano in piazza San Babila, ricorderete, annunciò la nascita del popolo della libertà. Ad un anno di distanza oggi è il giorno dello scioglimento di Forza Italia. Ne parliamo col coordinatore nazionale Denis Verdini. Momento in cui il Consiglio nazionale, investito dai poteri dal congresso di Assago 2, decreterà la confluenza di Forza Italia dentro il PDS, dando mandato naturalmente al Presidente Berlusconi di procedere in questo senso. Quali sono i passaggi più difficili? Insomma, immagino che ci sarà anche qualche resistenza, e invece quali sono gli aspetti più positivi di questo passaggio? Ma guardi, diciamo, l'aspetto positivo comincia da quello che io sono ottimista, mi piace di più, è il risultato del 13 aprile, quindi il fatto che gli elettori abbiano riconosciuto giusta l'idea di un partito che raccolga tutti, riformisti, cattolici, moderati nel complesso, e l'ha premiato con il voto, un grande voto, e con il governo. È chiaro che qualche piccola resistenza locale esiste, ma se la negassi sarei un bugiardo, ma anche se le prendessi troppo in considerazione sarei uno sciocco, perché in realtà sono cose normali che superiamo di giorno in giorno insieme a tutti gli altri amici, alleati e a questo punto diciamo promotori del popolo della libertà. Il tutto con un occhio a quello che succede anche in AN. Sì, no, è tutto concordato quello che succede in AN, perché ognuno di noi, ogni partito, quelli del proprio statuto, ha le proprie regole, la propria tradizione, e quindi arriviamo al congresso di marzo costituente del PDL con modi diversi e con modi comuni. Con gli alleati le cose vanno molto bene, voglio essere sincero. Qualcuno ha titolato un toscano alla guida del cambiamento. È questa anche una chiave di lettura? Perché insomma sappiamo che il PDL ha un forte radicamento, anche Forza Italia, per l'origine forse dell'entourage legato a Silvio Berlusconi nel nord, a Milano in particolare. Questo cosa vuol dire? C'è un tentativo anche in qualche modo di radicarsi di più su tutto il territorio nazionale, ma anche nel centro Italia? Sì, ma direi, insomma, la forza dei singoli partiti, partendo da Forza Italia agli altri alleati, è omogenea su tutto il territorio, con qualche differenza evidente, quindi non è questo, non è un passaggio da un partito non nazionale a un partito nazionale. È chiaro che ingrossando i numeri, siamo intorno a, abbiamo preso il 38%, i sondaggi ci danno 42-43%, tendenti a crescere, è evidente che l'ambizione è quella anche di rompere certe situazioni come quelle delle regioni rosse, ma è un'ambizione, non è un fatto strutturale, quindi no, direi un caso che un toscano sia alla guida della questione. così nel PDL. Processo di unificazione già avvenuto per Margherita e DS, che oggi sono già il Partito Democratico. Qui tutto funziona, bagarre politiche a parte ovviamente. Un problema ancora c'è qui ed è l'assunzione di oltre 100 impiegati dei vecchi partiti. Sentite. Ancora per 3 anni saranno una coppia in separazione dei beni. Sposati alla causa del PD, DS e Margherita conservano ciascuno la propria sede e anche parte degli impiegati. DS e la Margherita fino al 2011 incasseranno 120-125 milioni di euro. È interessante sapere come utilizzano queste risorse visto che non fanno più attività politica. Di sicuro per il tesoriere del PD, Mauro Agostini, possono pagare quei 146 dipendenti che ogni mattina, nonostante il trasloco politico nella casa comune, continuano a timbrare il cartellino, chi al botteghino, chi in via del Nazareno. Non ci stanno i colleghi di DS e Margherita, Sposetti e Lusi, che in uno scambio epistolare chiedono l'ingresso di tutti gli impiegati nel loft. Ma è al 2011 che Agostini pensa. Il Partito Democratico ha, tra luglio ed agosto, assunto 135 unità, sulla base di elenchi provenuti da DS e Margherita. Per quanto riguarda i regionali, mano a mano che avranno le risorse cominceranno ad assumere quelli di cui avranno bisogno. Qui non c'è nessuno che sta rischiando un posto di lavoro, tanto per capirci. Assolutamente. L'impegno della PD è quello di una progressiva assunzione? Prevede l'assunzione nel 2011 di altri 15 dipendenti da DS e Margherita. C'è tanto tempo in mezzo, vedremo di andare incontro alle esigenze che ci sono. Allora, oltre alle esigenze, ognuno porterà anche le eredità di immobili e debiti nella buona e nella cattiva sorte. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore. E adesso è arrivato il momento della sicurezza stradale. Parlando, occupandoci qui di sicurezza stradale, non possiamo esimerci dal parlare e anche dal trattare l'argomento della buona vista, insomma, quindi del fatto di vedere dove andiamo, cosa facciamo quando siamo alla guida di un'auto o di un altro mezzo, che cosa ci succede intorno. Vuol dire che dobbiamo vederci bene. Qualcuno lo fa naturalmente, qualcun altro ha bisogno delle lenti. Ecco, questo argomento volevo affrontare questa volta con Silvio Scotti, comandante della Polizia Municipale di Monza. Appunto, da quali leggi, da quali norme è regolamentata la guida con le lenti, Silvio? È regolamentata sempre dal nostro codice della strada, in particolare l'articolo 173, che parla appunto non soltanto delle lenti, ma di tutti quegli apparecchi che dobbiamo utilizzare o che non dobbiamo utilizzare durante la guida, tanto per intendersi, è anche l'articolo che proibisce l'utilizzo del cellulare se è privo di auricolare. Senti, su questa cosa qui ho capito che tanto, scusa se lo dico, insomma, hanno abbassato un po' la guardia i vigili della Polizia Municipale, perché io continuo a vedere tantissime persone che guidano con una mano e l'altra col cellulare all'orecchio. Su questa cosa qui si vede gente ondivaga avanti, che esce improvvisamente da un parcheggio, che non rispetta lo stop perché ha il cellulare. Però questo è un altro paio di maniche. Ma sulla invece questione degli occhiali. Sì, sulla questione degli occhiali, anche in questo caso il comma 1 prevede che il titolare della patente di guida, qualora in sede di rilascio o di rinnovo della patente sia stato prescritto l'utilizzo delle lenti, ha l'obbligo di utilizzarle durante la guida. Ovviamente anche in questo caso, nel caso si venisse fermati, controllati, si utilizzassero le lenti o gli occhiali, ecco che scatta una sanzione che parte da 70 euro per arrivare fino a 285 e è prevista anche la decurtazione di 5 punti dalla patente. Però mi viene in mente un piccolo diverbio che aveva avuto un conoscente che era stato operato, sai, col laser per la miopia, però sulla patente che non era stata nel frattempo rinnovata, cioè che era ancora valida, era riportato l'obbligo delle lenti. Come si risolve questa cosa? E dunque dobbiamo anche pensare alle modalità del controllo. Noi abbiamo a che fare con un agente di polizia, il quale ovviamente non è un medico. No, e non è in grado di valutare quanto se, uno ci veda, esatto, o meno. Di conseguenza lui si attiene a quello che è scritto sulla patente, tant'è che la norma è chiara e parla dell'obbligo prescritto, no, quindi in sede di rinnovo. In quel caso chi si è fatto operare dovrà chiedere l'aggiornamento delle prescrizioni rivolgendosi alla ASL competente, perché non esiste un altro modo per, cioè, proviamo ad immaginare cosa potrebbe fare la gente, fa un esame di tipo ottico in mezzo alla strada, insomma sarebbe curioso, ecco. Quindi è bene, una volta che ci si facesse operare per migliorare la vista, chiedere l'aggiornamento delle prescrizioni sulla patente di guida. Insomma, ci affidiamo alla buona fede fede al buon senso delle persone che guidano. Ringrazio Silvio Scotti, come sempre Roberta Giordano vi invita a guidare con intelligenza. A noi i figli della mafia vogliamo legalità, è l'appello che rivolgeranno domenica ai parroci dei paesi d'Andrangheta. Arrestato intanto in Campania Gianluca Bidognetti, figlio ventenne del boss dei Casalesi. Un uomo di 33 anni uccide moglie e tre figli, poi si toglie la vita, la tragedia a Verona. La mia coscienza è pulita, io resto. Il senatore Villari non cede il timone della vigilanza Rai. Tutto pronto per il decollo di Compagnia Aerea Italiana. I dipendenti passeranno dall'Italia a CAI in 3 minuti alla mezzanotte del 30 novembre. Il petrolio oggi vale $50 al barile, la metà rispetto a luglio. La crisi fa tornare indietro l'orologio della domanda di energia di 23 anni. Matrimoni difficili, oggi si scioglie Forza Italia, DS Margherita uniti nel PD, ma i dipendenti dei due vecchi partiti sono ancora ognuno a casa propria. GR Extra Large, Alessio Maurizi e Anna Migliorati in studio per questa edizione con il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Peter Bescapè. Buon fine settimana, a lunedì. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.